con le impieghi a zero, e esce bene mi Roberto. Ho capito, non so che già. E infatti qualche persona hanno detto che questo portante ero io, no, sono quello tipo poco portante che non me l'ha fatto un cazzo lo paracchino già. Ha detto così, io non ho sentito fare la vittura da nessuno. Cosa? Che io in frequenza non ho sentito nulla tutto questo, che qualcuno che ha fatto la vittura. La vittura non l'ha fatto nessuno, mi sa. No, no, noi in frequenza no. Voci che hanno riportato me l'hanno riferito a me personalmente, capito? E gente della frequenza, alcune persone hanno detto che questa portante famosa è la mia, no, ripeto, adesso meno male che ci ritrovi questa portante forte che rompe le palle, io sono in frequenza, l'hanno messa anche a me, non sono io, perché, ripeto, a me se mi dà fastidio una persona, dico, oh, ah, me li gioco con la Ianna, dico, ma cos'è che vai? Non è che vado a mettere portante che non me ne ha fatti nulla già, capito? Ehi, ma poi siamo persone grandi, ci mettiamo a giocare con le portate adesso. Ma ho detto, se continuava non sentivo nessuno, mi spegnevo il baracchino, ma accendo il PC oppure mi guardo la televisione. Ma infatti, io lo so perché l'ho acceso, perché ho acceso il portatile e ti ho sentito, e tu dici deve essere il Tonino per questo. E sto guardando la televisione mentre stavo mangiando, e poi una volta che finisce quel programma degli animali, sul canale 5 io giro sul canale 1. Ma mi sono un po' tuffato, va, di guardare queste cagate. Comunque qua la portata non è arrivata, perché a te l'ha messa 2-3 volte di cosa stavi parlando. La mette a tutti, non la mette solo a me. Anche a me l'ha messo, la mette a 5, la vuole fare tutti, a quello leone. Il vicino allora deve cambiarsi lui un attimo, se c'è leone deve fare, deve ubbidire a lui. via. No. Manuele non ce l'ha questi canali. Ce li ha? No, Manuele ce l'ha per 140 canali. Vabbè, ma non potevamo stare lì a farci mettere la portata da lui. Vabbè, anche quello è vero. Farà, io santo, dai, tu. Sì, un po' sì. Vabbè, posso sempre abbassare, così dovrebbe essere buona, va. Ora così buona, guarda. Ora. È più amplificata, per forza. Niente, io ho staccato il certificato e più, non ho attaccato niente perché mi serve sempre a farmi lo spezzone, almeno 60 cm. La mandronia però fammi, c'ho tutto, lo corrente, DL, tutto, non è giugana di farmilo già, perché ho cambiato la stazione, il maracchino era vicino al lineretto, adesso non c'è più, l'ho tutto spostato e vabbè, esco lì, ce l'ho mai fatto niente. Ho capito. E io. Niente, mi sono preso un altro apparato, mi sono preso. E che apparato ti ha preso? Ho 40 canali AMFM, di stazione fissa. È molto più piccolo del Galaxy però è un po' vecchiotto, infatti ho detto la carrozzeria, levigarla, verricciarla, castrare e poi passa lì trasparente. Che apparato è? Che marca è? Midland, aspetta dico anche questo è un Midland, allora esce qua modello 78-574 lo bianco Roger. Ho capito, che dopo l'ha beccato? Franco di Sorso me l'avete detto. Cavagara, ho capito. So anche che tutta la scuola è parlata. Allora, è capitato, stavo parlando di frequenza. E poi c'era anche Claudio, che io stavo cercando la stazione in fissa, quello per l'altro, lui è entrato. Poi un altro orecchione di porco ha sentito il mio numero di telefono, se l'ha registrato, mi ha mandato anche la stazione sua, e poi ho capito chi era, trovato chi sì. E siamo in mezzo in trattative, dai, anche con questo qua, non lo voglio dire perché non mi va a dirlo in frattempo. E niente, Claudio pure ha stesso lato il numero di telefono mio, si è registrato e mi ha mandato la stazione sua, mi ha mandato. E tutto qua, ecco come ho recuperato questo baracchino qua. Non è che un gran malacchino. Comunque, a me piace stare in pizza perché giustamente nel buco che ho fatto io me ne incastro tutti quanti lì, capito? No, è bellino, ma lo rifai bianco. Cosa? Lo rifai bianco. Sto pensando di farlo bianco, con bianco, bianco ghiaccio, dai. Sto per fare anche il carta da zucchero, come ha fatto Gianni Cappellù, l'ha fatto, è venuto bene, il carta da zucchero l'ha fatto. Sì, mi piace molto anche quello martellato, la pizza lì. Sì, a quella dura, a quella che c'è al toccai. Esatto. Quella lì io ho avuto il toccai 5024, nuovo, proprio non l'ho fatta a casa, l'ho visto, no, torno, quello te lo pago io, non c'è problema, me l'ha fatto calo. Questo e questo, li voglio tutti e tre, quindi. Niente, io poi devo togliere la carcassa, l'ha levigata perché c'ho tutta l'attrezzatura per farlo come si deve. E poi lo spray. E io avevo fatto una bicicletta in metallo a mia sorella, una gabbia grande tipo voliera a mia sorella, mi ha tagliato la voliera. Se l'ho verniciata, tu devi vedere, perché se torna a far nuova, non sono rimasta contenta. Quella che abitava a Porto Torres, che conosco io tu. Cosa? No, Porto Torres, Sassari, abita la Bretellina. No, io conosco quella che abitava a Porto Torres, che via è quella lì, ma non a Montangiro, che abitava a Montangiro, te lo ricordo. Poi mi dava via Balai, ma è morta lì. Morta? Nel 2010 mia sorella è morta. E poi 2 anni fa è morto mio cognato. Però, ecco perché quella casa era sempre chiusa. Io, quando passa, mi sono visto che abitava la sorella di Torino, tra me, ma poi era sempre chiusa. Mi dispiace. Sì, me la ricordo bene, si truccava, morto e cose. Me la ricordo come se fosse lui. Sì, abitavo totalmente a Porto Torres, via Balai. Via Balai ci ha fatto, ci abita il figlio adesso. È morta di quel male al pancreas. Abitava via Puccini, esattamente. No, quando abitavo a Montangelo abitavo via Cane, perché poi ci abitavo anch'io, ci abitavo. Quando mi sono comprato la casa, non so se me la stavo aggiustando. Ah, è via Cane, qua sì, vabbè, comunque è Montangelo. Via Puccini a fianco. Poi, se la vi... anche a mamma era morta la mia sorella un paio di anni fa. Non l'hanno riconosciuto che c'era diabete insipido, l'hanno trovata riversa sulla vasca, è entrata in coma, è stata 5 anni in coma e poi è morta. E invece mia madre all'altro mese fa 4 anni che non c'è più. Anche tua madre la conoscevo, conoscevo tutti. Vabbè. Purtroppo la vita è questa. Prima o poi tutti là devono finire, quindi cerchiamo di goderci la vita, stare calmi e sereni. Deve essere una giovane, mi aveva 59 anni, ha compiuto 60 anni in ospedale quando era ricoverato. E chi? Mia sorella, quella che è morta, 60 anni. Cioè. Sì. Ecco, mia sorella, giovane, con esattezza, dunque 10 anni fa, quanti anni avrebbe avuto adesso? Dunque, 73 anni penso. Aveva 73 anni. Vabbè. Purtroppo è la vita quella. E allora cosa ci vuoi fare? Quando è questi malati è un casino. Oioioi, per carità. Comunque, io in poco tempo mi sono fatto una super bella stazioncina e sto ancora aumentando. Quanti ne hai adesso di apparecchi? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Senti, io ne ho 6, Ma i miei sono non a seconda mano, sono tutti quanti nuovi, ho comprati quasi tutti nuovi. Tra il Galaxy e quello... 2009 che era nuovo, si può dire, pochi mesi di vita, me l'ha fatto con la scatola, il nylon, tutto fatto nuovo, No, io ti posso dire che in ottime condizioni c'è solo Galaxy e quell'altro, e con l'ex 4000, l'altro è tutto montezza, cioè, dici così è andati, dai, si mettono sulla sua mano e trattati, eccetera, eccetera. Quindi. No, io non li sono fatto così, se non sono nuovi, anche secondo me non li metto. devono essere immacolati, se no non mi piace. Non mi piace mettere roba a vita. Il gas è perfetto, non c'è un graffio, tutto perfetto, perfetto. Anche il mio è perfetto, perfetto, è ultimo, è immacolato. Dunque c'è luce di smittere, di due smittere, e intorno è azzurrita, ma so quanto è bello. E poi c'è giustamente cosa è carano e frequentemente verde. E gli smittere li ha illuminati con la luce blu. Sì, abbiamo cambiato la lampadina e la luce blu, ma venitami. Sono una cornice intorno blu e al centro è bianca. E lei? Bisogna mettere i led, ti illumina tutto. Sì, vabbè, la mia è un bianco giallino, dai, come proprio come è originale, è l'originale. Niente, ho procurato questi due cordatori d'antenna, uno piazzato, però sono sempre usando questo il baracchino. Sta vanno bene. Sapete che funzionano bene? Sì, quello che c'è Manuele, mio figlioccio, praticamente c'è Gio Maria che l'ha dato. Ma qualche nuovo il figlioccio è il 5? Sì, l'avevo chiamato io, da 10 tempo fa. Proviamo a riandare nel 10, a vedere se c'è ancora. Poveraccio, mi dispiace, me l'ho lasciato solo, però a casa devi scappare da questo qua, se no non casi. Aiuto 10, dai.